Toes, un Toes. Prima abbiamo ascoltato due cover di Bob Lind cantate nel 1966 dai Rockers, che tra i primi portarono in Italia lo stile beat. Sonorità epigonali di Beatles e Bob Dylan, anatemi di amore e pace, protesta all'acqua di rose, come si legge nel Salvatori. Dal 1967, anno della Summer of Love, troviamo produzioni beat originali italiane. Sentiamo ancora due pezzi di questa protesta generazionale, questa volta non importati dall'America, uno ancora dei Rockers. Cercate di abbracciare tutto il mondo come noi. Riderà, forse qualcuno riderà, ma anche a te offriamo un fiore, sai perché? Cause we love you, che vuol dire amiamo voi, and we love you, solo chi non capirà, riderà, altri che portano fiori come noi, hanno già capito che la forza è qua, cause we love you, che vuol dire amiamo voi, and we love you. E cercate intorno a voi, cercate di abbracciare tutto il mondo come noi. Anche a te offriamo un fiore se lo vuoi, che ti dà un orizzonte che non hai, cause we love you, che vuol dire amiamo voi, I will love you, e cercate intorno a voi, cercate di abbracciare tutto il mondo come noi. Offriamo un fiore se lo vuoi, che ti dà un orizzonte che non hai, cause we love you, che vuol dire amiamo voi, I will love you, e cercate intorno a voi, cause we love you, e un fiore vi dirà that we love you, e cercate intorno a voi. Cause we love you. See, see, we love you. Yes, we love you. See, we love you. Yes, yes, we love you. Tra i veri gruppi italiani beat, i Rockers si distinguono dignitosamente, rispetto ad altri sono un gradino sopra, ma comunque c'è da distinguere più radicalmente tra le canzoni di protesta genuina, la critica sociale in musica, come quella di De André, del gruppo Cantacronache, di Luigi Tenco, dei chansonnier francesi, e quella critica di comodo annacquata per il mercato di largo consumo della moda dei figli dei fiori. Un personaggio come Luigi Tenco era piovuto nel caravanserraglio di Sanremo proprio nell'anno in cui, per indulgere ad una moda dell'epoca, si cantano rivoluzioni fasulle. E per di più, con una canzone che tocca un tema drammatico della società italiana del tempo. Al festival, nel 67, si piazza bene la squallida canzone La rivoluzione, citata con sdegno nella lettera testamento attribuita a Tenco, e si piazza al terzo posto la commercialissima proposta dei giganti. Mettetevi i fiori nei vostri cannoni. Era scritto in un cartello sulla schiena di ragazzi che, senza conoscersi, di città diverse, socialmente differenti, in giro per le strade della loro città cantavano la loro proposta. Ora pare che ci sarà un'inchiesta. Tu, come ti chiami? Sei molto giovane. Mi chiami Brambilla, fu l'operari, lauri la ghiera.

L'antimilitarismo, la protesta contro l'autorità e la critica sociale in musica prendono anche pieghe molto più serie e molto più violente in quegli stessi anni. Sentiamo la storia di un altro soldato ribelle cantata da Pino Masi nel 73, il soldato Bruna. C'era un tale Riccardo Bruna, contadino in gran povertà, che per colmo, diciamo per ora di sfortuna, militare dovette andare. Arrivato che fu al reggimento degli alpini e trascorsi 3 mesi di CAR, centro addestramento reclute, gli fu dato un bel mulo e l'armamento, pensate un mulo, per poter sulla patria vegliare. Venne il giorno dell'esercitazione, i generali in elicottero e jeep, ma tu hai voglia di dar pedate al mulo? Sembra sordo e non vuole partire. Scusi tanto, signor caporale, ma il mio mulo non vuole marciar. È colpa tua che sei un animale e che non ti sai far rispettare. E no, lei si sbaglia, signor caporale, io se voglio mi faccio rispettar. Lei per esempio mi ha chiamato animale ed allora si prenda questo qua. Con un pugno sulla testa quadrata, il caporale nella merda finirà, la merda del mulo favorisca che è fresca di giornata, così almeno avrò poco da pulire. Si sospende l'esercitazione e il tribunale militare dirà 9 mesi a Riccardo Bruna, che a Gaeta li deve scontare. 4 mesi per il pugno al caporale, 4 mesi, 5 mesi perché il mulo colpì. Parve chiaro e anche al tribunale militare quel che vale un superiore oggi di. Il servizio militare è una prigione e Gaeta è una prigione militare. Quel che ha sofferto il soldato Bruna lo possiamo facilmente immaginare. 9 mesi di questa sporca vita, che a dire il vero più vita non è. Oh cara mamma, vorrei farla finita, se non lo faccio è perché penso a te. Tornato che fu da Gaeta, il comandante degli alpini lo manda a chiamar. Infanteria ti faccio trasferire, così gli alpini non puoi più disonorare. Prima mi mandi 4 giorni a casa, che è quasi un anno che non ci vado più. Niente licenze e niente permessi, il disonore nostro sei tu. Comandante, lei non mi dà permessi, perché non sono stato un bravo alpin. Ma chi va a casa, qui son sempre gli stessi, quelli che hanno il padre coi quattrin. Sei contadino tu, cosa vuoi capire? Ho già sprecato troppo fiato con te. Se ho deciso di farti trasferire, non mi fa cambiare idea neppure il re. Capo a vetere, reparto punizione, il nostro fante adesso contadino è là, e di licenze neppure l'illusione, tanto sa che nessuno gliele dà. Dopo un mese di questa quasi vita, Riccardo Bruna non ce la fa più. Se legalmente qui non c'è via d'uscita, dice, illegalmente me ne torno su. E gettato per terra il fucile, è la divisa che più non servirà. Ho i vestiti prestati da un civile, sulla strada di casa se ne va. Son passate 8 ore o forse meno della tanto attesa libertà, ma non aveva neanche i soldi per il treno, alla stazione lo hanno arrestato. La settimana prossima preparo una selezione da portare in piazza per la manifestazione sfilata del 1° maggio. Anticipo qui alcuni brani più violenti in cui a fatica si distingue la questione della guerra dalla contestazione sociale sul lavoro. Brano popolare antico

rhythm was blue. Stand out, banjo's cry do, deep blues, the dog can hide, I do.